mio like. Ah, io ti saluto, adesso sono arrivato, dai, sentiamo più tardi se coincide. Io da me ci devo facendo, facciamo le chiacchiere. Se riesco a far accendere la radio franca, vediamo un po', non lo so, se mai poi c'è l'infoletto, magari c'è un bel fuoco, quindi non accendo. Vabbè, ciao, saluto anche a Tomare, e ci sentiamo, Tomare, tuo padre, eccetera, eccetera, K. Capa, dai, contraccambia, saluti mamma. Ciao Gianni, non so se adesso continui a sentirmi. Se non ascoltare più, ci verrai. Non so se non ti ha sentito, che sono stato Daniele, capriva. Quello che uso io è il TL922 che uso. circa 73 o più ecco. Un po' più piccolo, però quello che codice MK logic del quadro banda con i 50 mega, quindi UHF, HF, UHF 50 mega, quello è il quadro banda che uso esclusivamente per quelle frequenze. E poi c'ho sia 7 altre radio che sono tutte attive dal 430 al 440, quindi 430, 440, 140, 70, tutte linee complete. Poi c'è vabbè il C25 che è quello del monobanda sempre da 50 watt, 4I706, tra l'altro vabbè tutto di portate le varie cose. Come microfoni uso MG60 e SM20 già, gli altri microfoni per me sono zero, microfoni a tracco baratto di con Sassari, no? Sono quelle piccole da mettere c'è una bottezza allucinante in modo laterale, dai, me l'ho provato, però una volta che spinge bene in banda, spinge anche bene la M. Fare un casino, ma conteggiare, fare, KF2, mi ascolti bene? Ti ascolto con un Santiago di 5 e la radio ti posso fare 3. Se siete in Barramonte non lo so, è come di un nuovo vecchio, però c'è una collina, quella che con un po' più la conosci, che è quella che mi fa uscire, quella della cimenteria che speravo che se la mangiavano con tagli, che è della fame di medica. E purtroppo le funzioni sono quelle. Sempre avuto un po' di difficoltà per alcune zone, anche perché coperta lì sotto per Gioia e Usci rimane molto bassa. È la piana appunto che è lì della, come si chiama, quel posto di Coronciano, scusate, ma quando si ha va bene. Comunque si vedrà, non c'è problema. Sì, perché qua arrivi benissimo, 5, 9, più 10, radio è potete fare di meglio, però non è lo stesso, non c'è problema da parte mia. Caparossi, vabbè, l'importante è farsi sentire, dai, sto bene. C'è il, come si chiama, il tattino sotto per il... ascoltando, vai, interessante il discorso, vai. Non vi preoccupate, io sono sempre in ascolto, vai. Sì, puoi dire anche la tua, Antonio, c'è un problema, avanti. Ok, puoi dire anche la tua, È negativo, non so da che parte iniziare, è capito. Ciao a quelli che stanno ascoltando, fatemi sapere se riesco. io ti saluto e ci sentiamo semmai alle prossime, ok? Tutto arrosto, fano, pesca. c'è la farmacia pesce arrosto, tutto quanto in gravità la cosina, niente. No, lui che va a fare un po' di grazie, dai. Vabbè, c'erano sempre porcetti, galline, di tutto, c'erano il cortile con le galline che pascono. Vabbè, così è buono, vai. Poi c'era la loro casetta, se entrano dentro, ma certo non ce le mette dentro e le chiude. Ah, beh, tutto programmato, dai. Sono ruspanti, insomma, non sono galline di chi si dà delle femme, che non le sono venute, quelle sono ruspanti, mangiano tutto pietre, quello che trova. Chiappa chiappa, tu fai in grasso, dai. Yeah, yeah. Allora, sei tu, Diego? No, ragazzi. E come mai? Più tardi, più tardi, se esco, esco più tardi. Ci sono stati degli intuppi e non potevo uscire. Chiappa roccia, andate, già va bene così. Bene, bene, non va, ma insomma, lasciamo andare così. Sono dei piccoli tocchi, quindi se ci troviamo ci troviamo più tardi, sempre che gli altri abbiano voglia. E allora, vediamo un po'. A me alle sbadiglie mi sa che... No, mi sono fatto il bagno, non so quanto ti rilassa, ma ti fai il bagno e stai meno spapparazzato nell'acqua. Sì, già lo sveglio io. Adesso sei bello spapparazzato nel letto, così. È normale. Così che sono due spapparazzate. Lo sai cos'è, questa gamba così mi stanco subito a stare in piedi, devo stare o seduto o a letto, mi stanca subito. Vecchia la gamba. Ma non dovevo andare venerdì, se l'ho moderato. Sono andato, ho fatto il colloquio con l'anestesista, che era anche un bel buono, tra l'altro. Lì l'infermiera, tutti due erano delle belle donne veramente. E niente, abbiamo fatto questo tipo di colloquio e mi ha chiesto tre cose, se avevo mai fatto anestesia, eccetera, eccetera. Adesso dovevamo fare l'anestesia. Proprio indovinare. La spinale mi fanno, mettono là con la spina dorsale. Sì, addirittura. E allora, tra una vertebra e l'altra, poi mi entrano una sonda, ma questa sonda buttano dentro il liquido per farti l'anestesia. Vabbè. Ne dicono tante di cose, stasera mi hanno detto che è anche cancerogeno questo liquido. Se ne tu va. Mi hanno detto così. Chi l'ha fatto me l'ha detto. Io liquido cancerogeno, ma purtroppo dice, lo devono fare perché dopo entrare la parte. Aspetta. Ma è doloroso. Lei ha assicurato di no, mi ha detto che fa più male il lago della flebo che mi mettono dopo che quello lì. Dice, il flebo li può fare più male di quello, ma quello lì proprio non li fa niente. Ah, beh, mi ha detto questo. Lì, dai. Beh, fa una prestazia prima di... Passa una specie di liquido anestetico prima di farti quell'iniezione. Non senti proprio nulla, nulla. In effetti addormentano, diciamo, la parte dove va fatta proprio l'anestesia, diciamo, là. Il mio problema è vedere i trapani che mi bucano la gamba, quello lì è il mio problema più brutto. Che vedi tutto? Allora, se era stata totale l'anestesia sarebbe stata un'altra cosa. Non ti possono mettere una benda o qualcosa. Ecco, c'è una posta la faccia scoperta per vedere, c'è il monitor davanti, vedi tutto quello che ti fanno, sono con tre trappani, tu non lo fai da una parte, lo fai dall'altra, lo fai dall'altra, tre trappani ti bucano l'osso. Maria, cazzo, vabbè, fatto vuole lì già. Sta schiacciando la portante per far che... Grazie, fate una vergogna, avanti, fa che... Ma perché mi stavano coprendo già? ti appassavi lo stesso, ma sentava no, di comprire. Allora sono nell'uni a quest'ora. Vabbè. Infatti io qua non ero proprio, non entrarci da me, figurati tu. Ero proprio per non entrarci. È che se ti fate e poi infatti per me entrare qua te lo un poco a niente. E avanti. Entrare già, che sono entrate. Chi è? Chi è questo bell'ecco? Avanti, capo. Buonasera. Proprio room. Sei con me? Sono via da cane. Da che ora non ti sono via, capo? Ma la domo sta? No, negativo. Se sono uscito ora. C'è un'ora da fare in meno, va. Campo, capo. Ancora non precisata, capo. La ragazza è andata a un battesimo, dunque, a un buffet battesimo di un nipotino. Stai facendo il solitario allora. Ma tu non volevi uscire? C'è stato un problema e non siamo usciti. Capo, problema di tipo grosso. Salve, dovevamo andare in pizzeria, ma poi uno dei componenti non è potuto venire perché è arrivata gente a casa e quindi li abbiamo rimandati. Dalla gaba. Venera. Come sono uscito dalla Batmobile, Gianni? Gaba. Già stai scendo bene, Sanfiri, ogni volta mi chiedi come stai scendo, scendo bene, lo sai. E lo so, mi è passato un carriello, qua se l'ha fuorandato. Cappa. E quindi sei solitario stasera? Oh, sono solitario, io gli amici già li trovo sempre, se li voglio trovare. Cara gara, sto a casa. Mi bevo una birichetta, mi lavo le mani che stavo giocando col cane. E poi si vede, se vuoi uscire, ti prepari e te la faccio un giro, capo. Poi magari saliamo al quadrato, io chiamo a Pierino. Poi a vedere se ti per. Facendo sport, micidiale. Dimmi di cosa fanno al quadrato la notte, che è molto true band, roba di caduta che abbiamo visto, spettacoli allucinanti. E non so, c'era anche io ieri sera al quadrato, C'era un paio di qualcuno a vendere un guascio, cava che era. Vedi la verità che anche ti tenta a correre. Non saranno, detto che lui faccia la macchina, cava. Facchini, già sono un po' piano. Gasolio costa. E uno nella curva di Coso, dove c'è il bar Havana Club. Vedi, quella curva lì. Fate chi c'ha due, si gira la macchina. E c'è entrato, ha preso sopra il cordolo che c'è prima di entrare dentro il quadrato, quei cordoli che ci sono, è passato lì sopra, nella della macchina due ruoti, così che ha si capute. Positivo. E scendendo in via Solari, su Attisi, qualcuno si c'è addormentato, veloce pure, e gli ha buttato un palo della luce, tutto quanto è sdraiato in terra, quel palo della luce. Scendendo dopo di fronte alle suore, cos'è, dopo la scuola, dopo il tecnico femminile, sulla sinistra, scendendo, c'è un palo sdraiato in terra, nel marciapiede, di quelli un bel alti, tutto sbarrato, gavagava. Quello lì sicuramente si è intervenuto a pattuglia, gli hanno ritirato la patente perché più che cotto non poteva essere. Cazzo che tu sui, ogni apparu. Una volta io ne ho fatto uno di incidente lì, questa coppia che stava andando a ballare, questo tipo sparato, cotto che pippa, la birra in pieno, gli ha fatto, praticamente li ha presi in pieno, ha fatto male a loro, in più ha capottato con la macchina e si è fatto male lui. E quando siamo arrivati noi a caricare le cose, c'era anche il cane dentro la macchina, poveraccio, c'è tutto il muremisi. Caparroccia. Sto scendendo che ho le valigie a cose di Xina. Mi sciacquo le manine e mi bevo la birichetta. Dai, fatti sentire, dove troppo, già. Vabbè, io adesso qua lascio acceso, poi esco fuori, dai. Non c'è nessun altro. Frequenza. Sì, c'è Fachi. Marchetto! Ebbè, Salvidio, Girella. Via. Buonasera anche a lei, mi ho riascoltato, Gabo. Ascoltato anche a te, allora dopo vai a prendere a Gianni, dai, fate il diretto qua vicino al bar, c'è un medico RM, mi sposa, non ce n'è più, ce l'ho a Santiago 2 e 3 e mi dà un po' di fastidio, capo. Io poi veniamo a prendere a te, non c'è problema, quando volete ci vieni, sì, vediamo prima. Perché non vengo, e che problemi ci sono? Se Saverio ci sta, andiamo, passiamo, ti prendiamo, andiamo a mangiare un panino, una cosa. Ma pagava. Lo Saverio è scomparso. Dici che aveva QRL. Mi ha andato a ciucciare, a fare il piede. Ha scritto la mano per i mari, che stavo parlando in verticale, ha detto a due palli, che sono sempre l'ascolto, bravo. Ciao, dopo. Ma tu hai detto, ma se ne mai la prendi la birrosa? Ti ho detto a bagnarti il becco, non è che ti sei stato qui a cacca. Capo. E perché? Cosa c'è? Non c'è niente di male se mi bevo un bicchierotto di birra il sabato sera, bianco un attimo, a dopo. No, no, no. Perché? Perché non l'ho mai attaccato. esatto, mi avevate, non l'ho mai fatto le connessioni per l'apparato che ciò e quindi è rimasto sempre lì. Ma attacchi a Bologna? C'hai bolloni? Hai bolloni perché uno me lo doveva fare, questo attacco non me l'ha mai fatto, non l'ho potuto mai usare. Mi sono entrato un uomo io. Io ti frigio di farci un atto, vaffanculo. Ma tu l'hai fatto? No, mi ha cognata. KK, ma tu non l'hai più fatto? Le ho fatte la volta scorsa. Quando siamo andati qua? Quando siamo andati qua? Ma sai che cosa volte siamo andati in campagna a mangiare a Natalino? Possiamo andare a fare... Eravamo già pronti praticamente. Io la trovavo sulla materia di Luzzo che l'hai fatto. Quello lì è il pasto che fa bene a me. Quello? Ho detto le frittelle, insomma, un pasto che a me fa non bene. Che lo zucchero lo posso mangiare io. Ma che zucchero lo metti? Ah, no, ci puoi mettere le fruttose al posto dello zucchero, vedi? L'altra volta lo stavo aspettando 5 minuti, sono lì, mi preparo, scendo in fretta, non passava più, ma non è successo anche cosa. Poi se l'ho telefonato, mi ha detto, no, sto venendo subito, poi ho detto, con Alessio, con l'altro amico di Carbonati che tu gli hai dato l'antenna. Era da pigliare di lì. Salvino, Salvino. Adesso quando è stato a casa scende, non aspetto più giù io. No, va bene, infatti io quando sono a casa, mi dice va, sono a casa, allora sì, no. Ma io non sai cosa è che scendo con la scusa di aspettare, poi mi fumo una sigaretta, capito? Ma tanto di fumarti la sigaretta poi deve arrivare invece, ne vuoi due, tre, quattro, dico, tu ma che vuoi fumare? Lo devi tu. Oh negativo, questi casi bisogna prendere qua a casa, aspettare tranquillo, quando lui dice mi sta sotto a casa, ecco, allora sì. Aspetta, se per voi ti abbortate ma non vi avvale. Vai Morello, ritirati di lì. Una vergogna, questi c'è un antenino portatile, lo passi. Ma deve essere massacro pisa già. Non lo so. Segnale ferma. Ah, KK, sta telepizza. Vabbè. Andrà bene, andrà bene. Un po' annoiato, sì, da. Perché questo era abituato. Oh, già il bagno me l'ho fatto, sono tutto lavato, profumato, non ho fatto che mi scimmie, non faccio problemi. Beh dai, già va bene. Ai. Mi fa male tutta la gamba, vai, non a male. E poi non so dopo quanto ci metterà a uscire. Dopo che mi opera non lo so come sarà. Vai tranquillo che tu già si riprende la grande, dai. Speriamo. Speriamo. Io me la sto un po' temendo, perché dico la verità, sono matta, perché sono andato su internet e mi sono guardato tutte le operazioni, l'anestesia, cosa mi facevano, che cosa comporta, cosa si subisce dopo l'operazione, come ti devi comportare, tutto qua. Mi ho studiato tutto. E allora? Quando hai studiato tutto, cosa feci tu di quello che studiamo? Praticamente dice che dopo l'operazione devi portare le stampelle, fare fisioterapia, possono passare anche 6 mesi per riprenderti. Ma addirittura? Addirittura. Ah, ma così quello che dopo l'operazione ci vogliono massimo 2 o 3 giorni per prendersi. Camminare e prova a fare, metterti il carico addosso a vedere se mi aveva legato il ginocchio, così ti si consuma il ginocchio. No, negativo, è bene, normale che dopo l'operazione non è che puoi caricare, no? Capito, cioè, ti dà il tempo di cicatrizzare tutto, capito? Perché io carico 6 casse di acqua da 2 litri sopra il carrello, quando non c'è ascensore lo porto all'ultimo piano, non so se mi spiego, tu che sai come ti sono le situazioni. Capo, no, l'avevo fatto anch'io al lavoro, non ti preoccupare, cioè cosa vuol dire caricarsi, io addirittura ne portavo 3 sulle spalle, adesso un po'. Io ne portavo il carrello nelle scasca, faccio salire. Quindi non dico che sia sempre così, per la maggior parte dei palazzi dove, specialmente via Satellite, è così. Tutti all'ultimo piano, 20 casse d'acqua d'estate e vai. Mamma mia, pesante, è un lavoro pesante già, è tutto quello che tu subisci, insomma. Va bene, un po' dura, va bene, vai. Quello che sto temendo, quello io. Infatti ci sto prevenendo, già te ne parlerò. Cappagazza. Vabbè. Ma io non lo sapevo che tu potevi uscire così, perché sennò te l'avremmo detto da prima. No, negativo. Quando vuoi uscire esco, non c'è problema, capito? Ma devi venire anche al quadrato, quando andiamo noi non c'è problema. Certo, è stato sempre l'appoggio dei cibi quadrato, sin da vecchi tempi si fermava tutti con le macchine, i cibi giocavano a pallone, insomma, facevamo un casino, ma un po' di macchine c'erano, un periodo c'erano un po' di macchine, i cibi tutti quanti giocavano a pallone al quadrato. Voglio uscire la faccia, non tanto, però qualcuno che me la faccia. Come? Bella uscita. Ma manco io, tanto io esco vado il sabato, così, sabato notte, perché poi c'è mia figlia che va a ballare, quindi ne approfitto, vado a prendere, che c'è tutto quanto il messo, non è che mi danno i locali, così non va. Quando prima glielo facevo, quando ero fidanzato andavo con mia moglie. Adesso non ci vado più. I locali tipo dove ballano, cose del genere, discoteche, night, non ci ho mai frequentato. Ti ha pagato. Questo è stato importante, cavolo. Ma non vuoi dire tu mai che sei troppo importante già. Sei importante adesso. Ma comunque a Franchetto non lo passo, da me perlomeno no. L'inutile si può staccare di guida. Isso è vero. Intanto guarda, non ti trovi già portante, se sei un ragazzo togo e educato, sei tranquillo, ti fai il tuo discorso e non c'è problema. Capito? Sei straniero. Sta di legno, non Daniele. Daniele quando gli si mette il verme dentro, capito? Come ti rabbia? Caraga. Ma di legno è più dura. È più dura di legno. Io gli abbassare dai, guarda. Che gusti. C'è gente che come il baracchino per mangiare la portata. Ma che gusto di figlia. Luca sa. Vabbè, con questo telefono risolto. No. No, qua. Sono attimo. Un attimo. Le metteva prima di evitare con una coperta, la faceva tutta l'antica, la metteva con una coperta pesante a evitare. Una volta che uscivano le bolle, poi la sculacciava, la faceva, la lavorava la pasta, no, tutto quanto, la sculaccioni, proprio invece che con la macchina, proprio la sculaccioni lui. E infatti la prendeva e diceva, sfogati così non picchi a me, e lui si metteva a ridere. E poi le faceva sia col cucchiaio sia con il butto, le faceva di ricotta, le faceva normali, insomma, e poi quando faceva quelle normali si sentiva proprio il sapore dell'ame, diciamo che piaceva, erano troppo buone. Lo so, e quelle, come mettere in quattro, dai, più o meno. E tutti gli ingredienti che bisogna saperli dosare, frugante, non è che sono l'impasto giuro. Sì, l'impasto è una parte della frittella, ma se non sai dosare i componenti, gli ingredienti, non ti esce bene. Avanti, Falchino. Chiama Rocci. Le frittelle, ma a me piacciono, ma rimane poco e niente. Ma si diceva sempre di non bere acqua quando mangiavamo le frittelle, perché ti gonfia. In effetti è vero, Davanti, affendi di noi, ma niente, ma non sai, le mangiamo calde. Chiari. Ma ancora potevo mangiare litri. Adesso si possono fare però con dolcificante oppure con fruttosio, che non è lo stesso, però che non fa male. Chiappa, per il problema tuo sì. Io non posso mangiare solo lo zucchero. Lo zucchero è pochi carboidrati. Poi per il resto posso mangiare due niente. Chiapparogelo. Vabbè. L'importante è che si possa mangiare un po' di tutto. Lo zucchero è sostituibile con altre cose, con la saccarina, col fruttosio, col dolcificante, non è che sia una cosa che non puoi sostituire, no? Ma io ti dirò che guarda, il dolcificante è quasi quanto lo zucchero è più o meno. Sì, anzi, dolcifica di più dello zucchero, è più dolce. È più dolce dolcificante, infatti basta un cucchiaino che ti dolcifica bene la cosa, che ce ne vogliono due per fare la stessa cosa dolce così. In effetti è vero. E io oramai sono cose che ti ho provato. Per dire, mia moglie, nel sugo si mette sempre un po' di zucchero, no? Quando è acido, non acido, di solito c'è uno spunto sempre il sugo, si mette un po' di zucchero. Invece che metterci lo zucchero, mettendoci il coso, il fruttosio. Cappa, è anche migliore, dai. Fa meno male perché lo zucchero si assimila tutto in una volta, invece il fruttosio piano piano lo assimila il corpo, capito? Quindi se lo zucchero ti fa più male, perché cosa succede? Già il pancreas che non funziona, che produce poca insulina, e lo zucchero invece che produce insulina per bruciare lo zucchero passa lì per metterti gli organi, capito? Invece il fruttosio è diverso, va piano piano. Gaffa, ecco perché la differenza. Io prendevo il dolcificante, vabbè, il dolcificante lo prendo al bar quando non c'è altro, però solitamente prendo fruttosio a casa. Prima prendevo il dolcificante, poi l'ho eliminato perché c'era saccarosio, e saccarosio è cancerogeno, hanno scoperto che è cancerogeno. Addirittura chiamo. Però tanto è sempre in commercio, non capisco il perché. Quello che dico io, perché non me lo lascio in commercio, cioè caccia rotta, poi? Chi la sigaretta, non la mette sicuro. Faccio la sigaretta, sigaretta brutta lo stesso. Cappa. Non è infatti. Vediamo se c'è caldito. Raggio conosci tu, non come c'è te che si è cancellato tutta la banda. Ah, quello della portata, questa è la salva. Tanto lo fa che non si tocca manco un bello come si sa. Ah, è fatto, ci pulisce il quaderno a me. Eia. Per carità di Dio, ancora non ha compreso che è una nullità, che non ve la va via, appunto importante. Poi, ancora non ha compreso. Io. Aspetta, è lui, chi. Andiamocene là. Così si gioca con la macchinetta la pipita. Gaffa. Dove eravamo poco fa, te lo ricordi? Gaffa, dai, così si gioca con la macchinetta. C'era 5 cille che mamma mi fa il quarello il 470. Remanetta.